Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. But we think we've got something that is. And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. So quella che avete, se questa voce un po' roca, un po' maligna, un po' da mago, era di Steve Jobs. Ieri è stato lanciato l'iPad. Buongiorno Cristina Tagliabue. Buongiorno, buongiorno. Noi abbiamo in collegamento da San Francisco, mi sembra di capire che sia l'unico giornalista italiano che insomma l'ha toccato con mano, Antonio Dini. Buon mattino, a che ore sono lì? Sono le 7:30, buongiorno, 7:34 per essere precisi, buongiorno, buon mattino a voi. Quindi ti abbiamo proprio tirato giù dal letto. Ma no, il fuso orario, sono solo 3 giorni che sono qui, il fuso orario ancora è quello italiano. Allora, che cos'è questa geggia? È un libro, è un notebook, è un iPhone che ha mangiato le vitamine, che cos'è? Beh, è un iPhone o un iPod Touch che ha mangiato le vitamine, una buona idea. Secondo me è la terza via, il tentativo di costruire qualcosa che stia nel mezzo fra i telefoni intelligenti da un lato e i personal computer, quelli portatili, da quell'altro. Un settore in cui, fra parentesi, Apple sta diventando un campione mondiale, perché proprio Steve Jobs è un po' passato in sordina, ma ha detto che come azienda che produce apparecchi per la mobilità è la più grande al mondo, più grande anche di Sony, di Samsung, di Nokia addirittura. Abbiamo letto quello che hai scritto oggi sul Sole 24 Ore, dove hai presentato un po' il prodotto. Insomma, domani ci stiamo chiedendo che cosa ci starà dentro. Ci saranno dentro i libri, ci saranno dentro i giornali. Quale sarà secondo te la killer application di questo oggetto? Beh, a prima vista direi la posta elettronica, in maniera molto banale, ma finalmente rende veramente utilizzabile la posta elettronica. Io ho potuto provarlo, in questo sì, veramente credo di essere l'unico italiano tra quelli che erano, tra le persone che erano presenti lì, e la posta elettronica si fa come non si fa su nessun telefonino, né di Apple, né di BlackBerry, né di altri. L'altro grande filone in cui si va è quello dei contenuti multimediali, una parte dei quali noi ci ostiniamo a chiamarli libro, però non sono libri di carta. Steve Jobs, quando ha presentato la funzione del negozio dei libri, ha anche detto che in questi libri potrebbe essere messo dentro quello che si vuole, anche immagini, movimento, testo, video. La stessa cosa ha fatto presentando l'applicazione per leggere il giornale una delle persone del New York Times. Il New York Times sbarca su questo iPad con il suo software per vedere proprio l'impaginazione del giornale e poi cliccare sopra con la punta del dito, quindi sfiorare con la punta del dito gli articoli per ingrandirli, o addirittura le foto per trasformarle in video, in animazioni. E questo è un po' diverso dal giornale tradizionale a cui siamo abituati. Allora, una battuta sul nome, un secondo, ti è piaciuto? iPad? Ce ne sono di meglio, in effetti. Ecco. Non sono critico come Vittorio Zucconi, però ci sono altri nomi che suonavano meglio. Sì, forse. Cristina. Ma secondo me invece è un nome bellissimo, perché dai, con tutte queste i davanti piccoline, iPod, poi iPad, certo, no, alcuni dicono pad, alcuni dicono pad, però invece in realtà... Inizia dici giusto, è pad. Com'è o pad? Com'è che si dice? Si dovrebbe dire iPad con una... iPad! Una via di mezzo fra la e la e. Allora, su iPad io ringrazio Antonio Dini, ti aspettiamo qui in Italia e passerei alla seconda parte, quindi cambiamo tono, cambiamo registro, voltiamo pagina, come si suol dire, ragioniamo di creatività, di premi, di imprese, di imprenditrici, ma prima sentiamo le news che ci raccontano il meglio della settimana. Una canzone per Amnesty, Call to Action. Manca un mese alla scadenza del premio web della manifestazione Voci per la Libertà. I primi 30 artisti che entro il 28 febbraio 2010 avranno iscritto la propria canzone a sostegno dei diritti umani potranno avere a disposizione un'intera sezione del sito ufficiale Voci per la Libertà, www.vociperlalibertà.it. Non solo il diavolo. Milano, sabato 30 gennaio 2010, Baldini Castoldi Dalai presenta Vita Prada, la biografia non autorizzata di Miuccia Prada, scritta dal giornalista Gianluigi Paracchini. L'appuntamento è previsto alle ore 17 presso l'Eiffel Home in corso 22 marzo 4. Una nuova esperienza artistocratica. Da domani fino al 5 febbraio la galleria online va in fiera. www.artistocratic.com sarà presente tra gli eventi off di Arte Fiera Bologna 2010. Le opere di Franco Fontana, Davide Bramante, Andrea Pacanowski e del fotografo Maurizio Galimberti verranno esposte nello spazio Frassinago 18. Allora Cristina, chi abbiamo oggi in studio e chi abbiamo in collegamento? Beh, in studio oggi abbiamo in realtà un architetto, anzi non so, architetta si dice, ma non, sì, non diciamo saprei come dire, che ha un volto giovanilissimo e che in realtà è stata una dei precursori, anzi forse la prima che si è occupata davvero in Italia di healthcare architectures. Mentre in collegamento abbiamo Patrizia Valla. Patrizia Valla, che è la vincitrice. Perché abbiamo queste due donne oggi, nella giornata di oggi? Perché entrambe rappresentano qualcosa. Sono due vincitrici, Patrizia Valla anni fa e invece Fara quest'anno, di un premio che si chiama Premio Gamba Donna per la creatività e che tra poco, anzi, inizierà, verrà inaugurato attraverso un convegno in cui tutte le partecipanti, insomma, parleranno e racconteranno il loro progetto imprenditoriale. Ecco, noi abbiamo in collegamento da Torino Tiziana Fara, buongiorno, tu stai aspettando di ritirarlo? Buongiorno a voi, sì, stasera ci sarà la premiazione. Ah, ok, per cui puoi restare qualche minuto con noi. Sì, sì, e sì, tu sei stata premiata nella categoria Under 30. Sì, hanno creato una menzione speciale data direttamente dal Ministero della Gioventù come migliore imprenditrice under 30. Ad hoc, sì, per te, giovane. Quindi, proprio sì, precisa. Sì, allora, ho 27 anni. Sentiamo subito nella scheda chi sei, che cosa fai e dove vuoi andare. Torinese, classe 1982 e un grande spirito d'iniziativa, Tiziana Fara è una delle cinque vincitrici del premio Gamma Donna 10 e Lode per la sua Fara Collection Made in Italy, fatta di curatissime lavorazioni realizzate a mano esclusivamente da artigiani italiani e particolari molto creativi come gli interni delle borse fatte con le cartine delle caramelle. Le borse sono in tiratura limitata, pensate per una clientela molto speciale, come ad esempio Luciana Littizzetto, per valorizzare ancora di più la creatività made in Turin. Ma esiste la creatività made in Turin? Sì, assolutamente. È pieno di torinesi creativi, insomma, con tanta voglia di fare e di emergere. Ma esattamente, cioè, in che cosa? Insomma, la domanda è che cosa significa essere premiata per la creatività? Cioè, com'è che si diventa creativo in un settore come il tuo? Perché il tuo è a cavallo tra la moda, il design, insomma, non è chiarissimo. Sì, io effettivamente comunque faccio, mi occupo di borse e ho diverse linee, faccio le borse in pelle e poi ho creato questa linea un pochino più di design in collaborazione con le pastiglie Leone, che sono delle borse in PVC con all'interno le cartine appunto di queste pastiglie famosissime. E si diventa creativi perché uno ce l'ha dentro, insomma, non è, oltre ad aver fatto le scuole di design, che vabbè, al Politecnico, però uno ce l'ha dentro la creatività e io sto cercando di tirarla fuori creando dei prodotti nuovi, perché in questo mondo per poter emergere e venire fuori bisogna comunque inventare delle cose nuove, come io ad esempio ho creato la borsa Cesti, è una borsa che si adatta ed è costruita sul cestino anteriore della bicicletta con una chiusura antiscippo, quella ad esempio è un marchio depositato. Quindi insomma la creatività uno ce l'ha dentro, bisogna solo trovare il modo di tirarla fuori e farla conoscere agli altri. Ma peraltro Luca, queste borse sono in cinque gusti: limone, arancio, fragola, violetta, miste e dissetanti. No, voglio dire che sono cose importanti, alla fine sembra che parliamo in stupidaggini, scusami con tutto il rispetto parlando, perché in realtà poi la creatività anche all'interno di una borsa è importante, ma Gamma Donna quest'anno, come dire, ha avuto anche come dire, il timbro, no, del presidente Napolitano, che ha voluto assegnare una speciale medaglia di riconoscimento al premio, cioè comunque è stata la Banca Intesa San Paolo, no, che ha voluto creare questo premio alla creatività. Tu dici che, insomma, che no? c'è una grande attenzione intorno a questa parola, c'è una grande attenzione anche da parte delle istituzioni, ma non è secondo te anche un po' marketing, un po', non dico aggrapparsi agli specchi, però cioè non c'è un'attenzione che però poi a cui non corrispondono poi dei fatti concreti, al di là del premio? Ma io vedo che ci sono tantissimi anche bandi nella regione Lombardia, no, per i giovani creativi. Ovviamente li leggo ad uno e alle volte li segnalo anche. Di cosa si tratta? Si tratta di insegnare ai giovani in realtà a imprenditorializzarsi. Cosa vuol dire? Acquisire delle facoltà, oltre che creative, anche tecnico-amministrative, per poter andare avanti nella propria attività indipendentemente, senza inserirsi all'interno di un'azienda. Ma infatti sarebbe carino, cioè Fara, dopo che avrai preso questo premio, cioè quali sono i passi? Beh, i passi sicuramente sono di cercare di espandermi a livello nazionale, quindi trovare nuove reti vendita, che è una cosa importante per il mio prodotto, quindi è un'opportunità per riuscire a farsi conoscere e espandere l'azienda, farla crescere. Questo è uno dei punti fondamentali. Quindi questo premio mi servirà assolutamente per questo. Ma funziona, cioè nel senso, cioè, hai già proposte, servono questi premi, qualcuno ti ha contattato, oppure cioè, quando si spengono le luci e si chiude il sipario, certo tu non lo puoi ancora sapere, però insomma... No, però in questo momento, ad esempio, io ho avuto contatti da diversi giornalisti, quindi comunque la comunicazione c'è, perché mi contattano, mi fanno delle interviste, esce il mio prodotto sulla carta stampata, se ne parla. E quindi una volta che se ne è parlato, mi auguro poi dopo di raccogliere i frutti di tutte queste parole, quindi mi auguro che arrivino clienti nuovi e che la gente si interessi al mio prodotto. Guardavo oggi il mio blog, è stato cliccato tantissime volte da gente che ha cercato proprio su internet Tiziana Fara oppure Borse Fara, quindi qualcosa sicuramente serve. Va bene, te lo auguro, tra l'altro capire quanto i click sul blog poi si traducono in soldi è l'equazione più complicata, direi, in questi giorni. Luca, sì. Nova Lab 24. 16:46, Luca Tremolada, Cristina Tagliabue, presentiamo Patrizia Valla. Abbiamo una scheda che ci racconta chi è, che cosa fa. Classe 1964, architetto con un grande interesse per la medicina e la ricerca, ha aperto una nuova frontiera. Architetture e giardini come strumento terapeutico. È considerata la Renzo Piano dell'healthcare architecture, personaggio eclettico e creativo che unisce l'arte con la scienza, che ama la natura e si realizza con lo sport perché la fa stare bene, che è poi quello che cerca di analizzare con le sue architetture, il senso di benessere e di libertà. È la vincitrice dell'edizione 2004 del premio Gamma Donna 10 e Lode. Allora, tu sei stata premiata l'anno scorso e insomma, dopo un 2004. Anno che... Intanto grazie per questa scheda fantastica, sintetica. No, quindi nel 2004. Per 2004 proprio nella prima edizione del premio Gamma Donna. Quindi a 5 anni di distanza, che cosa è successo? Quasi sei. È successo che mi ha portato fortuna intanto questo premio. Ero all'inizio della mia carriera nel 2004, però già con un'attività avviata. Gamma Donna è il salone dell'imprenditoria femminile, si è accorta delle tematiche nuove, innovative dello studio, cioè dedicare la progettazione e la creatività a supporto della malattia e di chi assiste il malato. Quindi cercare di creare degli ambienti in cui si stia bene, si recuperi una dignità di vita e si possa assistere bene anche da parte degli operatori, lo stress è sempre notevole, quindi agevolare con la progettazione, gli strumenti architettonici, il lavoro di assistenza. Quindi è stata una sfida complessa, però all'inizio erano solo intuizioni, poi pian pianino dalla teoria sono passate alle realizzazioni. Cioè praticamente tu sei un architetto, hai studiato architettura, sì. Il tuo professore ti ha indicato la strada per cominciare, sì, a occuparti, esatto, di healthcare architecture, cioè... Si tenevano le prime tesi di laurea, appena uscita dalla laurea in architettura sono rimasta a fare un po' di attività di ricerca, di supporto didattico, si vedevano le prime tesi di laurea sulle strutture per anziani, parliamo di composizione architettonica, le ho seguite e poi ho capito che addirittura parlando di Alzheimer, allora nel 94 quando ho iniziato a occuparmene al Politecnico neanche quasi si sapeva che cosa fosse l'Alzheimer, c'era un grande anche stigma. Poi di lì ho iniziato e ho capito che c'era bisogno veramente di dedicare tanto, tanto di ricerca e sempre a contatto con la geriatria, con il mondo dell'assistenza, con le associazioni dei familiari che mi hanno sempre supportato e sempre di verifica continua sul campo. Ho messo a punto le linee guida per progettare i primi nuclei Alzheimer e i giardini Alzheimer. Ecco, ma spiegaci cos'è un giardino Alzheimer, come è fatto? Allora, in realtà uno immagina chissà che cosa, invece è un giardino con un aspetto molto normale, deve essere molto semplice, razionale. A volte uno, un gestore può pensare che costi di più realizzare un giardino Alzheimer di un giardino rispetto a un giardino normale. No, non è vero. Sì, anche hanno perché cioè, il Renzo piano, io subito ho pensato, vabbè, questa vuole una valanga di soldi. No, in realtà, veramente. Che stiamo parlando di cose che questa costano. Vuole o vale, scusami? Vale, vuole, uguale. Beh, posso dire che i miei clienti finora non si sono mai lamentati, anzi, proprio perché c'è una razionalizzazione delle esigenze del progetto, per cui si elimina tutto quello che è inutile, superfluo, anzi dannoso, può creare rischi alla persona che si muove nell'ambiente, per esempio. Ecco Luca, guardando il suo sito, attraverso il quale tra l'altro ci sono dei video musicati molto belli che fanno vedere i suoi palazzi, le luci con cui sono illuminate. In realtà questi palazzi non sono dei palazzi normali, ma sono dei centri di cura, no? Dedicati alla cura, che però non sono, come dire, pensati come degli ospedali vecchia maniera, nel senso che in qualche modo Patrizia Valla ha quest'idea dell'architettura, del fatto che la sanità sia il monumento in realtà del contemporaneo. Dei nostri tempi. Se fate caso, ogni comune ormai ha una casa di riposo, quindi sono forme permanenti dei nostri paesaggi urbani, allora meritano di essere progettate come architetture di serie A, perché sono sempre più presenti. Finora invece... Ma l'impressione è che ci sono i soldi per questa è cosa. È una nota dolente, allora, perché i finanziamenti pubblici assolutamente no, pochi ce n'erano. No, perché è bellissima l'idea, cioè chiunque sia stato in un ospedale si rende conto che non è un posto, alle volte non è un posto adatto ad ospitare l'umano, cioè, però è complicato. Però ci sono soldi per metterci mano? Allora, intanto basterebbe cambiare i criteri di progettazione, con gli stessi soldi si può fare un lavoro molto più adeguato, intanto, proprio di progettazione. E questo vuol dire essere esperti nella propria progettazione. Un'altra cosa invece è avere un privato, come ho avuto l'occasione io a Imola, di avere un finanziamento che permettesse di fare un chiave in mano dimostrando quale potrebbe essere un'architettura terapeutica e anche un'architettura bella anche. Ci dai un indirizzo, qualcosa per contattare, per dare agli ascoltatori insomma due riferimenti? O direttamente dal mio sito io suggerisco le architetture, le strutture da visitare, oppure andando direttamente a Imola, c'è questo centro sanitario Alzheimer, l'ultima opera, e tra l'altro ho preso anche un premio internazionale l'anno scorso di architettura, vi consiglio di andarlo a vedere. Grazie, io volevo ringraziare anche Tiziana Farra che è rimasta in collegamento fino adesso, volevo ringraziare Cristina Tagliabue, noi metteremo sul Twitter tutti gli indirizzi, il sito e quant'altro. Ricordo il sito di Radio 24 dove potete scaricare sia il podcast della puntata che sentire in streaming questo programma e tutti gli altri programmi. Grazie, alla prossima. Grazie a voi. Buon pomeriggio.